Finestre, chiari, lucidi, di verità e di senso. Non può nascondere le immagini dietro, ancora avendo appannamento e il orario. I raggi del sole filtrati e chiarire la sua immagine. I raggi della luna avvelire la stessa e la notte. Finestre che si offrono la vista, finestre che si offrono la visione, finestre che a volte si appannano dal calore e dalla umidità, mentre l'appannamento normale e naturale. Finestre a livelli superiori, finestre a livello dal mare, finestre che non nascondono la verità con la pioggia e l'umidità. Essendo stante, essiccati al sole e alla pulizia, chiari, lucidi, di verità e di senso, i raggi del sole filtrati e chiarire la sua immagine, i raggi della luna avvelire la stessa e la notte. Finestre che chiarire la bugia, finestre che chiariscono la nostra visione e il nostro discernimento. Non può nascondere la maglia dietro, ancora avendo appannamento e irrorare, ancora senza essere normale e naturale, chiari, lucidi, di verità e di senso. Lugubrio Cesare.